cambia. Il suono cambia. Allora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. John Marie! Attenzione, John Maria! E tu sentendomi sì, e tu dormito sì, e andi bene. Ehi Maria, dormita sì, e c'è qualche lupacello, c'è Giovanni, e dormita sì, e te dottore, dormito sì, e tu dormito sì. No, il fissato sono, dottore, dormita, no, ma non c'è no. Ah, giusto. Gian Marie! Battisio! Signor Battisio! Hola! Hola! Signor Battisio! Gian Marie! Antonello! Attenzione, signor Battisio! E chi è che brucia? E che sto bruciando! Attento! No, dormito sì! Ma che ne tuo, cazzo? Beh, se non ha negano attaccarsi al suo gozo. No, ma il piatto hanno già messo l'impianto, ma mi sa che... Vedevano un sole, via. Con che tabbia gerellina? Oh! Se coperta non gli fa nulla. Ma devi mettere un cibalotto a pizzare. Ma cosa? Anche domani il burro suona. 3 giorni, oggi, domani e dopo domani. Fino a sabato. Cosa so, scusa? Fino a sabato sono lì. Sì, e sabato quando c'è la rubrica, ma il tempo non per me, scusa, Ma... Beh, da lì che hanno acciappato, va a fare tutto. Vabbè. Una settimana di pioggia e... Ma chi è che c'è? Lo sai? No, tanto non capisco. Chi c'è? Ma complesso è? O... Cantatore a Zassarisa? E lui poi ha di questo anno. E c'è la commedia. Comunque è tutta la sarebbe, è più brutto. Oh, mi sa che... Non fate né nulla. No, sto, questa pioggia non fa così. Buonasera. Buonasera anche a lei. Ma non ho capito nulla, chi sei? Se non mi piace, Andà bene, magari da giusto. Solo tu ce la puoi avere quel segnale. Poi, tutto da va. No, invece qua sta più vicinando. Sai che ne avevamo bombe, dove fa tutta la ghida, ne avevamo. Luca c'è! Luca, non lo senti? No, questo va cosa a parto basso, volevo dire, chi è? Non mi metto nel nome, mi dice già, ma da sorso. Aia, quello è brutto segno. Ma non sei vero? Luca, hai sentito che ti ha salutato? No, chi è? Ha letto per me chi sei? Buonasera, bene, va bene, serio, scusa. Sì, buonasera Franco. Caspita. Cosa vai, da radio o televisione, vicino? No, la televisione, ci avevo, stavo guardando la televisione. E c'era un volta. Adesso lo sì. No, adesso non ti sento bene. Tu non intendi più la televisione che a te. Uiuia. Luca, lo senti a Franco, sì? All'altro no, chi è l'altro? Altro è Franco, dici. Altra cosa, non mi ammento. Ciao Fra. Ciao Luca, come mai sei tu matto stasera? Ehi, tu altro ne toccato, non sono a casa, Ah, ecco, sì. Ti sento lo stesso, Luca. Ti sento. Ehi, fuori di fortissimo qua, Ehi, vai. Ehi, sempre nella stessa radio, stessi gatti, stesso microfono, sempre la stessa studio. Ho capito, vabbè, dai. Arrivi abbastanza bene, bella radio, bella, facciamo una telefonata. Avanti, sto. Ma ho capito chi è l'altro, sto, Non mi ricordo come si chiama. Basso, ma non mi ricordo come si chiama. È un grande rimbalzo, Ci compresi, cazzo, sei tutta frusci, sì. Ma è un frusci, da Edo. Mari, tu sì. Allora, ma che chiamo sto? Molto? Aspetta un attimo. Ancora? Ombe. Ecco un po' cosa non ti aveva compreso, Gaeli. Ancora? E io. Ancora? E ya. Non è entrata ancora, vabbè Mari, se rimani qui, andare, io, riprendi Fra. Ehi, no, ma non è che c'è qualcosa che aperto di filo, acceso. Caspita. Luca, sentito lei adesso a Marino? No, arriva bassissimo. No, forte. Male andiamo. Siamo male così, Catta. Bubu. Luca. Via. Ma cosa sei, Magnendi, sì? Non mi dici sei Magnendi, no? Assolutamente no. Dimmi, non ho capito. Ho detto qualcosa. Buonanotte. Riprendi Fra. Va bene. Ma dai, non c'è stato altro nessuno stasera. Ho sentito solo te a Marino e a Luca. Prima era la rasura, non lo fa vedere conmigo. Ah, va, c'era Luca, tu e Marino. Ma se non vedo altro nessuno, me, a meno che non entra Bacchisio subito. Anzi, dovrebbe essere più veloce con il tempo a uscire le lumache. Dipende. Sai che alle lumache quando gli tocchi le corna che dovevano lei. E paghi il suburo, Andiamo. Certo. La pioggerellina questo lo fa. Io mi sto scendendo la casa, sto scendendo, scendo poco fa, non l'ho mica fatto. Stava più originando lo stesso. Sempre andando, sempre bene. Ma ecco tu qua tu vuoi, Oh, qua già non la vedo e non la tengo, quindi non c'è nulla da fare. Senta, io abbiamo sentito la tua che sono attaccato alla porta del carrasco, ma con la cameretta lì. Se la vedi, la senti? Vuol dire che ce l'hai vicino, ce l'hai, nel terrazzo si sente. Andiamo lì, e ti sei. Luca, ma vogliamo andare? Io? No, alle 8 e qualcosa, metto a mangiare. No, lo stavo dicendo a Luca, lo stavo dicendo, non a te, Tore. Mi ha risposto, ho capito. Ho detto che ogni tanto non voglio avere, si deve avere la 25. Cosa stiamo usando? Un vincolare o un portatile? No, Mubico. Ah, Mubico. Diciamo che sei molto filmato, però comprensibile segnale presto. Sì, guarda, c'è problema, è la tua l'antenna del troccato, non posso fare niente. Beh, l'antenna del troccato di Atigrillo. A meno che non così l'antenna della televisione. Esatto, no, no, io qua la guardo la televisione. Ah, andate pubblicità, non potrò fare altro. E così si sente nel televisore, lui si sente. Cerca l'immagine. Lo sai che l'ultimo periodo, ultimo veramente, forse la sede al televisore, ma fa cazzo. Andavè, no. Come direttiva poi fa? No, è che vabbè, non andava. Poi, sai com'è, no, tutti quanti parlavano di questo alghero, io volevo sentire, ma aria bassa. Quello lì bisogna fare una piccola scheda per uscire con l'antenna del televisore. E poi ho messo l'antenna e hai fatto dappertutto a casa. Ogni tanto Franco ha QRM alto, mi sento, sono a casa. Certo, c'è QRM alto, in più copre, io non mi sento lui. E infatti, però diciamo che arrivo dappertutto, non ho problemi, i collegamenti li ho fatto. Diciamo che magari per la mia zona tu sei un po' negativo perché c'è qualcosa che ti copre da qui e copre anche a me da, a venire da te, è ovvio quello lì. A volte quando c'è un rende molto alto, anche quelle che arrivano un segnale di 7-8 che sono un segnale nodo di cosa di QRM. Mi ascolto, lo so, lo so. Vabbè, comunque attaccati, non ho un pezzo che ha dei problemi, che guarda che ha. Lì magari la zona tua che io sono in basso, perché sono in alto su al monte, ma sono portato a palare. Vabbè, tu mi attaccati sì, se non avessi problemi, però tu vedi se vi hai la tastierina e la calza campo che più fuori di Sassari, quello è ovvio. Senti io veramente, a parte tu e Antonello Alessio, problemi con il culo non ne ho, perché tutti mi arrivano fortissimo, tutti forti, io non so. E le tue filmate il segnale 8. Lo so, vabbè, dai. Accontentiamo, ti avanti, sono tutti i miei forti, so. Cos'è fra? No, ti ha rilanciato a Luca, ti ha rilanciato. Stavo parlando che il più basso che c'è la stata di a parte Luca e Corgo e Alessio, Antonello, a parte loro due e gli altri mi arrivano tutti, il più basso di tutti mi arriva 8, tutti gli altri 9, 9, 5, 9, 10. Perché cosa Alessio già tu dovrebbe arrivare forte lo stesso. No, non ti credere, Tore. Adesso mi arriva intorno al 7. Aspetta che c'è Bacchisio, c'è, è basso di volume. Ma chi tu sei? Ah, poi gli sei male, ma il segnale è forte, la radio bassa. Ehi, ok. Hai sentito Fra? No, negativo, non lo sento, ho fastidio. Non so se lui mi sente. Fra, sta usando l'antennino ed è basso basso. E allora, secondo la sua variante, lui non è che arriva qua. Non c'ha né segnale né niente, non lo sento più. Luca, tu l'ascolti? Ha chiamato Gigio. Lu. Sì, lo sento, ma è passivo di radio. E si porta dietro una lanternata. Sì. Bacchi, mi sa che non sta ascoltando bene, Sanu, sta gira. Solo io riesco a sentirti. ti prende appena di più già. Io solo ti ascolto. Non ti sento basso, ma chi vuole adesso? Va bene il carbone. La carta è carbone. E dopo la carta. Ok, Bacchi. Andave, sali su, sali. Ok. Ti prendi Fra. Se c'è un attimino piccolo, secondo la zona lei, oppure dalla posizionata, dovrei arrivare tanto. Ci c'erano giorni che ho sentito che ho sentito la nuova porta. Mi tra poco lo senti, aspetta, è tra poco lo senti. Aspetta, è con l'antennino. C'è anche l'antenna grande? Sì, c'è anche l'antenna grande. Poi è collegata in un altro posto. Allora sì. Va bene. Luca, cos'è che ha consegni? No, sto guardando l'occhietta più qui, là. Quello della fame vai. Mi ha dato maggio. Esagerato. Catta mi ha dato maggio. No. Andare. Flippe. Ma chi ha attaccato di sì? Mi ha da Edo. Ma la gente non sente su Gian Maria. Sott'alleva, sì. Uia. Buono, mi senti? Sì che ti sentiamo adesso. Oh, meno male. Buonasera a tutti, belli e brutti, allora. Avanti, Luca. Sì, ciao, Bacchi, ci sentiamo, dai. Avanti, Franco. Vieni adesso da qui, adesso sì che ti ascolto meno. Sei un idiota, una bella radio. Radio buona. Non come se può fare il fantasma, avanti a te da qui. Sì, ciao Franco, buonasera, e adesso sto con l'antenna giusta, poco fa con un antennino, con un piccolo antennino, è un barattino da 4 su. Ecco, va bene, quindi va bene, adesso va benissimo qua. Perché quando sei lì a è già una radio come c'hai tu, non è super perfetta, però una cosa comprensibile. No, sei lì a 10 minuti, arrivo subito. E allora Giobatti, in campagna è docca Eva? No, appena fuggi dov'era, non si può camminare in cielo lungo, tutta Eva. Pioggia. Te l'ho detto io, caspita, devi mettere il collo per non bagnarci lì. Sono sicuro, mi si è innaffiato ieri. Ma dentro un coso è innaffiato, dentro la... come ti si chiama, dentro la serra. Innaffiato? Ho preso la serra, non l'ho innaffiato. Ecco, ma potevi togliere il telone e innaffiare senza il telone. No, senza il telone. Allora, a forza si piove. Ma che? Allora, è bene. Mi ha detto l'altra è partita dalla Mili. Ha avuto già in Madonna, è una serena serena. E voi che fate la puntata, da mai sono andato a sopra di tutto. Allora, andiamo tra di ciao, 2 metri, si sta vedendo la mia sala. Allora, sta vedendo tutto. Era un po' di per la posta con te. Ehi, la L. Come la serra dei rubinetti? Io sono il laggio di Teo, che bisogna serrare i rubinetti, e puttacce, ha un altro lungo. Il fatto è che quest'acqua è... questa è caduta tutta in due giorni, cosa che doveva fare in un anno. Se la sto fendendo a mare, la sto fendendo a... a pietruppa, va? Pietruppa, ma lui si chiama Rileva, la via. E per forza di... ma se troppo vieni, se non avevamo ganato, Rileva. Pensavo del Reno è pieno. Ma lo sai, non c'è molto di... la sala campagna e già la nostra luce anche se va per il rubinetto non fa la valuta e se tu non attacchi la bomba gli ero un grido come la faccia luce in campagna tanto noi devi aspettarvi subito i giri. Ah, ma come se non ho tolto lo scaldabagno avanti fra se non mi sei dato un po' caglio sì devo anche la migliaia. Una cosa è sicura, il caldabagno non c'è un bordo, è un bocchetto, ma di stamattina la mia luce di sopra, quando parte il calusore, quindi mi voglio cancellare la luce, diceva, che mi aveva battuto, la parte della luce. Sempre un bocchetto, quando il caldabagno all'inizio, mi hanno lasciato, mi ha giù a gas, questo non lo attendi, è la prima la diretta. Infatti, a far così bisogna risparmiare adesso l'elettrico. Sì, risparmiamo. Sempre lui dice un po' contato. E lui andava a risparmiare la lampadina, da lui alla fine andava a passare una cosa e recuperare i geni che avevano risparmiato che già. Visto là. C'ha ragione. E tanto Tommy, quando non fa niente, è lei che la faccio pagare a te. A che ti vuole? Che cosa trasporta energia? Per dare a pagamento. Tassina di facilità di terza piazza che non vogliamo a te. E infatti, ed è così, quello che ha risparmiato. Se sono ancora le chitarre di questa bolletta che ho ricevuto, ci dovevo avere 30 euro in meno, anzi 38 euro in meno, invece non me ne hanno in busta. Hai chiesa, aspetta, stiamo in rovina che è stato prigionetto, hai venuto domani il busto, non ci sarà la creazione di domani. Una volta che le dai, no, in dentro, torna lunga. Dovevano scontare con la bolletta, dovevano scontare. Scontano nulla, non si scontano niente, to. Se li dai in più, a prendere, non a prendere, a guardare no. Chi mi ha mandato la lettera che mi doveva ridurre a 38 euro? Sì, la lettera, ogni poco te la paghi. E 38 euro per la Roma, sì. Speriamo. Oh, E già. A me un anno mi hanno mandato... Mi hanno mandato la lettera di 4 bolletti. E tanto a sopra, ve lo dico, non ho ricevuto nulla ancora. Ma dico, perché sei nato, se qui a me, non mi sono, non mi sono, non mi sono, la giocata in casino, la giocata a fine, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci devo dire a solo, e ci dev pensavo fosse un computer che era sbagliato. Aspetta. Mica, e tu? Non bisogna affidarsi di lei, è di nessuno. Avanti, baci. Ma sono appunto a Marino, io passo passo. Marino, avanti, tutti. Sì, sì. Sono passato tanto, baci, sono passato. Sei, io sono tutto piccolino, sono. Non sono una scuola, sono con la strada. E devo andare a fare la scuola, avanti, baci. Ehi, Marino, buonasera. Ehi, Franco, per forza devo fare la scuola. E continua a te. A tuo passo, poi non c'è niente, non c'è fastidio. Linea libera, avanti, frasi, prima. Minchia, se io non gli arrivo sulla scala, lui arriva a 9.5, da me arriva. E poi se non gli arrivo sulla scala, è un po' la scala, a parte la scala, lui dice che c'è un mezzo di potenza. Oh, veramente, bravo. Sì, allora metto da 5, se vuoi. Non metto da 5, perché non mi va ancora, perché mi sta cercando di tutto. Va bene, adesso lo dice, avanti, poi. Sì, caspita, sei tu che sei basso, Ti devi alzare, mettiti qualche foglio sotto, ti devi alzare di più. Non so, sta già piovendo qua, sta già piovendo, quando la piove vedo un paio di fuori là, perché lì qua mi saremo sotto, magari mi alzo di potenza, avanti da qui. Stavo chiamando la ultima negativa, è solo la sinistra di avanti. Ah, non ho trovato niente, ma cosa? Non ho trovato niente. Stasera c'è un messaggio che hanno cercato alle 11.45 e boh, sono questo qui, infatti non ho neanche letto il messaggio, non l'ho dato l'occhiata, c'è l'unica lista, va a capire, stasera il messaggio tuo. E ho fatto il tuo amore, secondo me, perché ho detto che è preso la scrittoria, poi ho fatto la giusta, però magari la chiesa sta parlando, mi sa. Lei con le storie, ma no, io non vedo più tutta. No, beh, anzi, sono camminendo, a voi, a batti all'altra, pensa un poco. Qui stamattina ero al CAF, poi dal CAF sono andato a fare la revisione alla macchina. E poi c'è un radar dai nonni. Altro voi. Ehi, camminendo, così non stai camminando. Stai camminando in macchina, camminare vuole camminare a piedi come faccio io la mattina. Io la mattina cammino, devo stare, avanti e stare. Cosa vuoi? Ti devo lavorare, dai, lasciamo perdere, dai. Allora, quello che voglia di giovane. Ma sono ricco, qua. Sono ricco, se devi riposare. Devo usare la bicicletta o invece camminare, la bicicletta, non camminare in macchina. Senza bicicletta, a piedi devi camminare, non bicicletta. Bicicletta in discesa non pedala. Perché lui si fa tutte le discese, non ho capito, perché lì che non le fanno. Perché la strada serve in discesa. E tu che non stai lavorando. A piedi devi andare. No, hai capito, la bicicletta, prendi il chiodo. Io se non sento, faccio. A te ne esce con la pancia che c'ha. Quanti mi avrei chiamato, li prendi bravo. Camera giubbato, ma dai nonchi, plattamone e alza, mi faccio se compasso di una carriera vicino a Bacchigi o Buro, in campagna. Capa, scusate, non ho rilasciato e siete partiti in due, tu e Bacchigi siete partito. Avanti, hai capito, attore, cosa fa? Prendi in bicicletta plattamone, perché in discesa, poi a risalire trova sempre qualche amico, caricano la bicicletta in macchina e a lui. E la famiglia se la fa in macchina. Oh, sono cazzato i pedalenti, sono cazzato. Non ne dici. Allora, sono pedalenti, che ero in macchina ieri, sono pedalenti, ha già visto. Dai, i pedalenti sono andati a via la pianura e via la cosa. Allora, la graffiella, allora la pone la bicicletta in terra, ho fatto via i pedalenti. Tu fai come se i cazzoletti, i blocchi. Io ho portato in moto, in macchina, dopo ci va via un traguardo, se ne farà. E cosa hai fatto tu? Te ne fra, certo, ne sei poco di barzellette, chi tu? Vabbè, lui ti conosce, io no, è diverso, sempre, perché è stato un brusco e poi avevo impegnato di lavoro. E mi sono comunicato io un rapporto, ma è stato risorto fino alla marina a piedi, caldo, freddo e caldo, e sono 6 chilometri. Ma tutti i giorni questo lo facevo, adesso ho smesso un po'. Vabbè. Io me la sono fatto in bicicletta e ogni tanto me la faccio con il cane un paio di chilometri, lo mangiano un ghizzo e poi rientro. Rientro a mangiare un buio, rientro va. Ho sentito la marina, però quando arriva già sulla marina non si deve fare tutta giorno. Che sei grande veandi, io ma chi stavo sentendo qualcuno basso basso basso, aspetta un attimino, c'è che sta chiamando, ma chi sei, cosa da portatore sei? No, poco intendo, allora senti tu Bacchi. Basso, non capisco quello che dice, basso basso, proprio terra terra. Franco posso ascoltami di noi, Franco, ascoltato l'amico. Ok, la sentite, ti sento basso basso, ma al limite 00 bruppi. Vabbè, dai, io Bacchi, io devo chiudere. Ciao Franco, ciao Bacchisio e all'amico dei portatori. Ok, ci sentiamo alle prossime. Ciao amico. Ciao, ciao.